Al-Hajj, il pellegrinaggio. Bismillahir Rahmanir Rahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. O uomini, temete il vostro Signore. Il sisma dell'ora sarà cosa terribile. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Il giorno in cui la vedrete, ogni nutrice dimenticherà il suo lattante e ogni femmina gravida abortirà. E vedrai ebri gli uomini mentre non lo saranno. Ma sarà questo il tremendo castigo di Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. C'è gente che polemizza a proposito di Allah senza alcuna scienza. E seguono ogni diavolo ribelle. Kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Del quale è scritto che travierà e guiderà verso il castigo della fiamma chi lo avrà preso per patrono. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيد. O uomini, Se dubitate della resurrezione, sappiate che vi creammo da polvere e poi da sperma, e poi da un'aderenza, e quindi da un pezzetto di carne, formata e non formata. Così noi vi spieghiamo, e poniamo nell'utero quello che vogliamo fino a un termine stabilito. Vi facciamo uscire lattanti per condurvi poi alla pubertà. Qualcuno di voi muore, e altri portiamo fino all'età decrepita, tanto che non sanno più nulla dopo aver saputo. Vedrai alla stessa maniera la terra disseccata che freme e si gonfia quando vi facciamo scendere l'acqua e lascia spuntare ogni splendida specie di piante. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. Così avviene perché Allah è la verità. È Lui che ridà la vita ai morti. Egli è onnipotente. Già l'ora si avvicina, nessun dubbio in proposito, e Allah resusciterà quelli che sono nelle tombe. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Ci sono uomini che polemizzano a proposito di Allah senza conoscenza, senza direzione, senza una scrittura che li illumini. ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. Gireranno il collo per sviare dal sentiero di Allah. Le attende abominio in questa vita e nel giorno della risurrezione il castigo dell'incendio. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Ecco il compenso per ciò che le tue mani hanno commesso. Allah non è mai ingiusto nei confronti dei suoi servi. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Fra gli uomini c'è chi adora Allah tentennando. Se gli giunge il bene, si acquieta. Se gli giunge una prova, fa volta faccia e perde in questa vita e nell'altra. Questa è una perdita evidente. يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ Invoca all'infuori di Allah chi non reca loro né danno né giovamento. Ecco il traviarsi più netto. يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ. Invoca ciò che reca loro danno piuttosto che giovamento. Che pessimo patrono, che pessimo compagno. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. In verità, coloro che credono e operano il bene, Allah li farà entrare nei giardini dove scorrono i ruscelli. In verità, fa quello che vuole. Man kana yazunnu an lan yansurahu Allahu fid الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Chi pensa che Allah non darà la vittoria al suo inviato in questa vita e nell'altra, tende una corda al soffitto fino a soffocarsi. Vedrà così se il suo artificio farà sparire ciò che lo fa andare in collera. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. Così lo facemmo scendere dal cielo in versetti espliciti. In verità Allah guida chi vuole. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. E certamente nel giorno della resurrezione Allah giudicherà tra coloro che hanno creduto, i giudei, i sabei, i cristiani, i magi e coloro che attribuiscono associati ad Allah. In verità Allah è testimone di ogni cosa. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawab وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. Non vedi dunque che davanti ad Allah che si prosternano tutti coloro che sono nei cieli e tutti coloro che sono sulla terra, e il sole e la luna e le stelle e le montagne e gli alberi e gli animali e molti tra gli uomini? Contro molti altri si realizzerà il castigo. e chi sarà disprezzato da Allah non sarà onorato da nessuno. Allah fa quello che vuole. هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. Ecco due avversari che polemizzano a proposito del loro Signore. Ai miscredenti saranno tagliate vesti di fuoco e sulle loro teste verrà versata acqua bollente. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Che fonderà le loro viscere e la loro pelle. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. Subiranno mazze di ferro. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. E ogni volta che vorranno uscirne per la disperazione, vi saranno ricacciati. Gustate il supplizio della fornace. Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. In verità Allah introdurrà nei giardini dove scorrono ruscelli coloro che credono e operano il bene. Colà saranno adornati di bracciali d'oro e di perle e le loro vesti saranno di seta. وَهُدُوا إِلَى طيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Saranno guidati alla parola migliore, saranno guidati alla via del degno di lode. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Quanto ai miscredenti, che distolgono le genti dalla via di Allah e dalla santa moschea che abbiamo istituito per gli uomini, e chi vi risiede e chi vi si reca sono uguali, e a chiunque insolentemente la profana, faremo provare un doloroso castigo. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ الطائفين والقائمين والركع السجود. Stabilimmo per Abramo il sito della casa dicendogli: non associare a me alcunché, mantieni pura la mia casa per coloro che vi girano attorno, per coloro che si tengono ritti in preghiera, per coloro che si inchinano e si prosternano. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Chiama le genti al pellegrinaggio. Verranno a te a piedi e con cammelli slanciati da ogni remota contrada. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Per partecipare ai benefici che sono stati loro concessi ed invocare il nome di Allah nei giorni stabiliti sull'animale del gregge che è stato loro attribuito in nutrimento. Mangiatene voi stessi e datene al bisognoso e al povero. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Ritornino poi alla cura del corpo, assolvano i voti e girino attorno alla casa antica. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Questo è quanto. E chi rispetterà gli interdetti sarà buon per lui presso il suo Signore. E il bestiame vi è stato reso lecito, eccetto quello che vi è stato menzionato. Fuggite l'abominio degli idoli e astenetevi dalle espressioni mendaci. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Siate sinceri nei confronti di Allah e non associategli alcunché. Chi attribuisce consimili ad Allah è come se fosse precipitato dal cielo preda di uccelli o del vento che lo scaglia in un luogo lontano. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Questo è quanto vi è stato prescritto, e chi rispetta i sacri simboli di Allah sa che ciò scaturisce dal timore del cuore. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Di esse godrete fino a un termine stabilito. Quindi il luogo del sacrificio sarà presso la casa antica. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Ad ogni comunità segniamo un rito affinché menzionassero il nome di Allah sul capo di bestiame che egli ha concesso loro. Il vostro Dio è un Dio unico. A lui sottomettetevi. Danne la lieta novella agli umili. Alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal-muqimiss-salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coloro i cui cuori fremono al ricordo di Allah, coloro che sopportano con costanza quello che li colpisce, e coloro che assolvono l'orazione e sono generosi di ciò di cui li provvedemmo. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. E le vittime sacrificali imponenti ve le indicammo come elementi rituali. In ciò vi è un bene per voi. Menzionate su di loro il nome di Allah quando le apprestate al sacrificio. Poi, quando giacciono senza vita sul fianco, mangiatene e nutrite chi è discreto nel bisogno e chi chiede l'elemosina. Così ve le assoggettammo, affinché siate riconoscenti. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Le loro carni e il loro sangue non giungono ad Allah. Vi giunge invece il vostro timor di Lui. Così ve le assoggettate affinché proclamiate la grandezza di Allah che vi ha guidato. Danne la lieta novella a coloro che operano il bene. Inna Allah yudafi'u 'anilladhina amanu. Inna Allah la yuhib كل خوان كفور. In verità Allah difende coloro che credono. Allah non ama il traditore ingrato. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. A coloro che sono stati aggrediti e data l'autorizzazione di difendersi, perché certamente sono stati oppressi, e in verità Allah ha la potenza di soccorrerli. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. A coloro che senza colpa sono stati scacciati dalle loro case solo perché dicevano «Allah è il nostro Signore». Se Allah non respingesse gli uni per mezzo degli altri, sarebbero ora distrutti monasteri e chiese, sinagoghe e moschee, nei quali il nome di Allah è spesso menzionato. Allah verrà in aiuto di coloro che sostengono la sua religione. In verità Allah è forte e possente. كناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Essi sono coloro che quando diamo loro potere sulla terra, assolvono all'orazione, versano la decima, raccomandano le buone consuetudini e proibiscono ciò che è riprovevole. Appartiene ad Allah l'esito di tutte le cose. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. E se ti considerano un impostore, ebbene sappi che prima di loro tacciarono di menzogne i loro profeti, il popolo di Noè, gli Ad, i Thamud. وقوم إبراهيم وقوم لوط. Il popolo di Abramo, il popolo di Lot. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. E gli abitanti di Madian. Mosè fu trattato da impostore. Ho dato tregua ai miscredenti e poi li ho afferrati. Quale fu la mia riprovazione? فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. Quante città facemmo perire perché furono ingiuste? Ora sono ridotte in rovine. Quanti pozzi deserti e palazzi abbandonati. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Non percorrono dunque la terra? Non hanno cuori per capire e orecchi per sentire? Che in verità non sono gli occhi ad essere ciechi, ma sono ciechi i cuori nei loro petti. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Ti chiedono di affrettare il castigo. Giammai Allah mancherà la sua promessa. Invero, un solo giorno presso il tuo Signore vale come 1000 anni di quelli che contate. قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. E a quante città ho concesso un rinvio, anche se erano ingiuste? Quindi le afferrai. A me tutto ritornerà. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Di, uomini, io per voi non sono altro che un ammonitore esplicito. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. Coloro che credono e operano il bene avranno il perdono e premio generoso. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. Quelli che invece si adoperano contro i nostri segni, quelli sono i compagni della fornace. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Non inviamo prima di te nessun messaggero e nessun profeta senza che Satana si intromettesse nella sua recitazione. Ma Allah abroga quello che Satana suggerisce. Allah conferma i suoi segni. Allah è sapiente, saggio. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Allah fa sì che i suggerimenti di Satana siano una tentazione per coloro che hanno una malattia nel cuore, per coloro che hanno i cuori induriti. In verità gli ingiusti sono immersi nella discordia. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Coloro che invece hanno ricevuto la scienza sanno che questa è la verità che viene dal tuo Signore, credono in essa e i loro cuori vi si sottomettono umilmente. In verità Allah dirige sulla retta via coloro che credono. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. I miscredenti non smetteranno di essere nel dubbio finché non giunga improvvisa l'ora o il castigo di un giorno nefasto. Al-mulku yawma idhin lillahi yahkumu baynahum falladhina amanu wa 'amilus الصالحات في جنات النعيم. In quel giorno la sovranità apparterrà ad Allah ed egli giudicherà tra di loro. Poi quelli che avranno creduto e ben operato andranno nei giardini delle delizie. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. E i miscredenti che avranno smentito i segni nostri avranno un castigo avvilente. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Quanto a coloro che sono emigrati per la causa di Allah, che furono uccisi o morirono, Allah li ricompenserà nel migliore dei modi. In verità Allah è il migliore dei compensatori. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. Li introdurrà in un luogo di cui saranno soddisfatti. In verità Allah è il sapiente, il magnanimo. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. Allah certamente proteggerà chi risponda proporzionatamente all'offesa e ancora subisca rappresaglie, poiché in verità Allah è indulgente, perdonatore. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. È così, poiché Allah fa entrare la notte nel giorno e il giorno nella notte, ed in verità Allah è colui che tutto ascolta e osserva. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. È così, poiché Allah è la verità, mentre ciò che invocano all'infuori di Lui è certamente menzogna. In verità Allah è l'Altissimo, il Grande. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. Non hai visto come Allah fa scendere dal cielo un'acqua che rinverdisce la terra? In verità Allah è il sottile, il ben informato. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa inna Allaha lahu wal ghaniyyul hamid. A lui appartiene ciò che è nei cieli e ciò che sta sulla terra. Allah è certamente colui che basta a se stesso. È il degno di lode. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idhnihi. Inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. Non hai visto che Allah vi ha soggettato tutto quello che sta sulla terra e la nave che per ordine suo solca i mari? È Lui che trattiene il cielo dall'abbattersi sulla terra senza il suo permesso. In verità, Allah è dolce e misericordioso nei confronti degli uomini. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. Egli è colui che vi dà la vita e poi vi farà morire e vi ridarà la vita. Invero, l'uomo è ingrato. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh fala yunazi'unnaka fil amr. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. Ad ogni comunità abbiamo indicato un culto da osservare, e non polemizzino con te in proposito. Chiamali al tuo Signore, che in verità sei sulla retta via. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. E se polemizzano con te, allora di: Allah ben conosce quello che fate. Allahu yahkumu bainakum yawma al-qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Allah giudicherà tra di voi nel giorno della resurrezione a proposito delle vostre divergenze. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Non sai che Allah conosce ciò che c'è nei cieli e sulla terra? Tutto ciò è racchiuso in un libro. Ciò è facile per Allah. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Adorano all'infuori di lui cose su cui egli non ha fatto scendere autorità alcuna, ciò su cui non possiedono nessuna scienza. Ebbene, gli ingiusti non avranno chi li soccorra. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. E quando vengono recitati loro i nostri chiari versetti, potrai leggere il fastidio sul volto dei miscredenti, e manca poco che si scaglino su quelli che recitano loro i nostri versetti. Di: vi dovrò annunciare qualcosa di peggiore? Il fuoco promesso ai miscredenti? Qual triste divenire! Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. O uomini, vi è proposto una metafora, ascoltatela. Coloro che invocate all'infuori di Allah non potrebbero creare neppure una mosca, neanche se si unissero a tal fine. E se la mosca li depredasse di qualcosa, non avrebbero modo di riprendersela. Quanta debolezza in colui che sollecita e in colui che viene sollecitato. Ma qadarullaha haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz. Non considerano Allah nella sua vera realtà. Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas. Inna Allaha samii'un basir. Allah sceglie messaggeri tra gli angeli e tra gli uomini. In verità Allah tutto ascolta e osserva. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Egli conosce quello che sta loro innanzi e ciò che è dietro di loro. A lui fanno ritorno tutte le cose. Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. O voi che credete, inchinatevi, prosternatevi e adorate il vostro Signore, e operate il bene, sì che possiate prosperare. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaykum fid دين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Lottate per Allah come egli ha diritto che si lotti. Egli vi ha scelti e non ha posto nulla di gravoso nella religione, quella del vostro padre Abramo che vi ha chiamati musulmani. Già allora e qui ancora, sì che il messaggero testimoni nei vostri confronti e voi testimoniate nei confronti delle genti. Assolvete all'orazione e versate la decima e aggrappatevi ad Allah. Egli è il vostro patrono. Qual miglior patrono, qual miglior alleato.